Ciao a tutti e bentornati a Radiobook, il programma del blog di scrittori della Porta Accanto in collaborazione con Radio Big World. Oggi parliamo di scienza con due editoriali di Stefania Bergo. Iniziamo parlando di Internet. Il 30 aprile nel 1986 alle 6 del pomeriggio dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico è partito il primo ping italiano alla rete americana, la neonata ARPANET. ARPANET era stata creata nel 1969 per collegare i computer delle università. Nel prefabbricato di un cortile davanti al Butterfly Gateway, Antonio Blasco Bonito digitò sulla tastiera la parola ping e meno di un secondo dopo qualcuno dall'altra parte del mondo rispose ok. Il messaggio viaggiò su un cavo telefonico della SIP, oggi TIM, venendo rimbalzato da diversi ripetitori. Il viaggio partì dalla stazione di Frascati, poi passò per l'Abruzzo, con un'antenna di telespazio, e alla fine arrivò alla stazione satellitare di Roaring Creek, in Pennsylvania. L'Italia si collegò così per la prima volta a Internet. Oggi molti si rammaricano che la notizia non ebbe al momento l'eco che le aspettava per la sua eccezionalità. Tutto passò in sordina. Apparentemente solo gli scienziati furono contentissimi per il ping avvenuto, ma questo è comprensibile. L'evento era maturato in ambito prettamente tecnologico, non si parlava certo di coinvolgere le masse. Non dobbiamo scordare poi che solo pochi giorni prima la centrale nucleare di Chernobyl esplose nel corso di un test di sicurezza. L'errore umano infatti aveva portato a un brusco e incontrollato aumento della temperatura, con conseguenze devastanti che tutti conosciamo. Come biasimare gli italiani se di fronte al pericolo radioattivo non hanno dato il giusto peso a un ping? Del resto, solo dopo l'invenzione del World Wide Web, da parte di Tim Berners-Lee nel 1991, Internet decollò realmente e uscì dal mondo accademico. Ma come funziona Internet? Con Internet si accede a una rete pubblica in grado di collegare a distanza vari dispositivi in tutto il mondo. Non occorrono cavi diretti. Immaginate ad esempio il vostro computer di casa collegato attraverso un cavo dati, che è diverso rispetto a quello dell'alimentazione, a una stampante condivisa in rete con un altro computer che si trova in un'altra stanza. Ecco, questa è una rete locale o domestica, in cui si possono distinguere un computer principale che crea la rete, ossia il server, un altro computer ad esso collegato, il client, e poi le periferiche, tra cui la stampante. Una rete internet altro non è che un insieme di reti locali, una rete globale che mantiene comunque la medesima struttura. Il passaggio delle informazioni da un computer a un altro della rete, attraverso le periferiche, avviene seguendo determinati protocolli di comunicazione. Nel 1991 al CERN di Ginevra, il ricercatore Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP. Si tratta di un sistema che permette una lettura ipertestuale, non sequenziale dei documenti. Ossia c'è la possibilità di saltare da un punto all'altro mediante l'utilizzo di collegamenti diretti, quindi link. Il primo browser con caratteristiche simili a quelle attuali venne realizzato nel 93 e rivoluzionò profondamente il modo di effettuare le ricerche. Nacque così il World Wide Web. Il 6 agosto venne pubblicato il primo sito web al mondo. Le pagine web erano progettate con un linguaggio che ne manteneva la struttura ipertestuale. L'HTML. Bastava aprire una qualunque pagina sul web e cliccare con il tasto destro del mouse, scegliere dal menu o tendina visualizza sorgente pagina, per rendersi conto di che cosa fosse il codice che dava vita a ogni pagina. Ora, immaginate Keanu Reeves quando guardava il mondo virtuale di Matrix e vedeva una pioggia di 0 e di 1, e solo lui riusciva a vederci una donna vestita di rosso. Ecco, siccome nessuno di noi è il prescelto, abbiamo bisogno di un filtro che trasformi quella pioggia. In questo caso è il linguaggio HTML. Quello che ci permette di vedere le pagine del web in modo chiaro e comprensibile, come un accostamento elegante di testi, di immagini, di video, di tracce sonore, è il browser che utilizziamo per navigare. Si tratta di un programma che codifica il linguaggio HTML con cui sono scritte le pagine e lo rende leggibile. Trattandosi di una traduzione, questo richiede un certo tempo di risposta, che si traduce nella nostra attesa quando cerchiamo di caricare una pagina. Questo ha dato il via a una serie di vignette umoristiche sulla lentezza di Explorer. L'informazione trasmessa è un flusso discreto di bit, o meglio pacchetti di bit o byte, che viaggiano in modo bidirezionale tra nodi della rete. Ora visualizzate questi pacchetti di dati come piccole pile di lettere da inviare a un amico. Sulla busta si indicheranno come di consueto il nome del mittente e del destinatario, altrimenti il postino non saprà dove portare le lettere. Nello stesso modo i pacchetti dati scambiati hanno bisogno di un indirizzo, o meglio, di un IP di destinazione, cioè quel codice numerico univoco che identifica ogni computer o dispositivo della rete. Non possono esistere due dispositivi con lo stesso IP all'interno della rete, altrimenti il postino non saprebbe a chi recapitare la lettera. Ecco perché a volte succedono azioni di conflitto quando si assegnano manualmente dei valori all'IP. Questo non accade ovviamente nel caso di un'assegnazione dinamica, cioè quando in automatico viene assegnato ad un dispositivo il primo IP libero disponibile. Un IP è quindi l'indirizzo di un dispositivo, ma anche di una pagina web a cui accediamo quando navighiamo in Internet. Le pagine web non sono sospese nell'etere, infatti, non sono presenze che invadono l'aria e vengono afferrate all'occorrenza. Ogni sito è ospitato da un computer, un host, che viene poi messo in rete, nella grande rete globale. Un computer quindi è necessariamente caratterizzato da un'IP. Un'IP è composto da quattro terni di numeri, compresi tra 0 e 255. Ogni pagina del web ha un'etichetta di questo tipo che la identifica univocamente. Noi però quando cerchiamo un sito internet non inseriamo un'IP nella barra degli indirizzi del browser, anche se in realtà potremmo tranquillamente farlo e arrivare ugualmente a destinazione. Il DNS, ossia il Domain Name System, è il sistema dei nomi di dominio in cui sono riportati i valori IP delle pagine e il loro corrispondente indirizzo di dominio. Quindi noi non scriveremo l'IP, ma scriveremo piuttosto la pagina e la pagina arriverà all'IP che cerchiamo. Il fatto di cercare un sito inserendo un URL invece di un'IP è una nostra comodità, che paghiamo però in termini di tempo d'accesso. Quando inseriamo nella barra degli indirizzi un'URL, infatti, il browser va a cercare nel suo database DNS a che IP corrisponda e poi traduce l'URL in IP e accede alla pagina. Riassumendo questa infarinata di informatica, Internet è una rete globale di computer accessibili a tutti. Ogni pagina web risiede su un computer detto host ed è caratterizzata da un indirizzo univoco che può essere scritto con un codice numerico IP o come sequenza di caratteri URL, grazie alla corrispondenza univoca dei DNS. Le pagine web sono scritte in HTML. Il browser è un programma che traduce l'HTML e lo rende fruibile all'utente finale. Ogni browser introduce un tempo di ritardo nella visualizzazione dovuto alla codifica della pagina stessa e del suo indirizzo. Navigare in internet è qualcosa che facciamo tutti quotidianamente. Basta un clic e sei dall'altra parte del mondo. Abbiamo fatto enormi progressi nella tecnologia, hardware sempre più prestanti, software sempre più veloci. Quello che dobbiamo fare ora è migliorare l'utilizzo di una risorsa che per alcuni appare ancora obsoleta. In realtà è l'elemento essenziale per una connessione globale, per i nuovi rapporti sociali e virtuali. Bisogna però insegnare ai nostri figli e a tutti coloro che ci circondano ad utilizzare internet con la testa, perché spesso ci si lascia confondere dalla facilità di accesso ai dati, o si crede a notizie false, o si è invasi da una moltitudine di informazioni da cui è difficile trovare il bandolo della matassa. Al contrario degli sport in mare aperto, per navigare in internet non c'è bisogno di polmoni e muscoli prestanti, solo di educazione e di buone connessioni neurali. Da utilizzarsi preferibilmente ancora prima del click. Anche oggi leggeremo un estratto. L'estratto che leggeremo oggi è tratto da Sinfonia Nera in quattro tempi di Tiziana Viganò. Solo lo scheletro, quello che restava della vecchia fabbrica tessile, incombeva su cumuli di macerie grigie nella mattinata invernale, fredda, cupa e brumosa. Proprio come ti aspetteresti da una mattina invernale padana. Un dinosauro meccanico arancione, dal lungo collo, masticava lentamente con le possenti ganasce i vecchi muri gloriosi di lavoro e di storia, causando un sinistro fragore e nubi di polvere. Un altro dinosauro più piccolo, giallo, arrancava in salita sulle macerie, lancando a intermittenza bip laceranti. Il maresciallo Adelio Rusconi tirò un profondo respiro, si strinse nelle spalle rabbrividendo e osservò con una smorfia schifata la nuvola di vapore del suo fiato. Indeciso sul percorso da scegliere in mezzo a quello sfacelo di pietre e ferro arrugginito, rivide nella mente la vecchia fabbrica ottocentesca. Era architettura fin troppo bella ed elegante per essere stata un sito industriale, grande area adesso sacrificata alla costruzione di nuove residenze. Il vecchio stabilimento aveva dato lavoro a migliaia di operai per 100 anni, anche a quelli della sua famiglia. Che tempo appiccicoso, che ci sto a fare ancora qui? Borbottava intanto il brigadiere Tommaso Lo Monaco, detto Totò, che camminava a qualche metro di distanza e perlustrava con occhio attento il terreno, un po' per dovere e un po' per distrarsi, perché anch'egli era intrizzito, ben stretto nella giacca a vento. Con un altro incomprensibile mugugno fece un lungo respiro per allucinare il profumo del mare e dei fiori di limone. Il suono del vento e delle onde, i colori forti delle eolie e del nativo golfo di Catania. Scommetto che troveremo gli altri dietro quel muro diroccato e quelle finte colline di pietra. Tornati in ufficio lessero il fascicolo con la denuncia sporta dalla vittima. Era datata gennaio e ora a luglio la moglie non era ancora ricomparsa. Sarà il caso di riprendere immediatamente le ricerche e coinvolgere l'Interpol. Potrebbe essere ricomparsa da qualche parte a distanza di tempo. Totò, voglio sapere tutto anche sulla cameriera albanese. Permesso di soggiorno, passaporto, viaggi a casa. Domani la convochiamo per un interrogatorio. È roba per te, io invece mi occupo dei movimenti della vittima. E così l'indomani se ne andò a Milano, a interrogare la commessa del negozio di Beltrame. Non volle approfittare della sua macchina con la scritta Carabinieri e parcheggiò come i comuni mortali in via Marina. Fece quattro passi con piacere, pensando che Milano, nel suo centro storico, è bella, è raffinata ed elegante, con quell'austerità e riservatezza che contraddistingue anche i suoi abitanti, poco inclini a ostentare, ma molto orgogliosi delle loro capacità e della loro cultura. Le vie di quella zona erano poco appariscenti, proprio come si conviene alla vera eleganza. I palazzi nascondevano splendidi giardini e cortili dietro le facciate di pietra grigia, belle e severe. Adelio notava che si era perso un po' quel fascino, da quando le vie erano state colonizzate dagli scintillanti showroom dei più importanti stilisti di moda. Era adesso una cattedrale del lusso internazionale. Aveva fatto in tempo a respirare l'aria della vecchia città quando, ancora ragazzo, era venuto a Milano a frequentare l'università e i corsi dell'arma. Si diresse in via del Gesù, dove si trovava il negozio di Beltrame. Si fermò un attimo a osservare la vetrina, con pochi pezzi di valore. Lo capiva anche uno esperto d'arte, pochissimo quanto lui. Però sapeva ancora cogliere e apprezzare la bellezza, in tutte le sue forme. Totò aveva 50 anni o giù di lì. Era bassotto, tarchiato e con il ventre prominente. Non proprio grasso, ma trecagnotto, come si dice da queste parti. Né bello né brutto. Occhiali sul naso e occhi scuri, vigili e attenti, sempre allerta, il meglio per un investigatore. Pochi capelli e baffi brizzolati, qualche piega sul viso vissuto e un forte accento siciliano che si portava dietro come un vanto anche dopo 30 anni in Lombardia. Adelio Rusconi, il suo capo, era lombardo puro sangue, ma gli sarebbe piaciuto diventare una star come il commissario Montalbano. Beh, lui era tutt'altra cosa rispetto a Totò. Sui 40 anni, 1,90 m, centimetro più, centimetro meno, fisico perfetto, palestrato ma non troppo. Una bella faccia. Quando si guardava allo specchio la mattina diceva a se stesso che era un gran bel maschio. Tanti capelli quasi neri, naso un po' grande e lungo, ma era dritto e con gli occhi scuri. Aveva forse qualche antenato guerriero? Chissà. Una cascata di capelli lunghissimi, mossi e lucenti, di un colore splendido, quello della buccia delle castagne. Si incendiava di rosso alla luce del sole che entrava dalla finestra. Quella donna seduta alla scrivania, di cui si vedeva solo la massa scura e luminosa, insieme alle due spalle curve, come quelle di una vecchia o di chi porta addosso il peso del mondo. Mani che proteggevano il volto dalla luce. Stava scrivendo e singhiozzava forte. Le lacrime scendevano a bagnare il foglio. Pian piano si calmò, continuò a scrivere, fece il punto finale della sua opera e la guardò a lungo. Poi si spostò davanti al PC, copiò gli ultimi fogli scritti a mano e si ravviò i capelli con le dita. Li arrotolò e li fissò in alto con una matita. Il viso era libero. Anna aveva una pelle bianchissima, e fellidi sul naso e sulle guance, lineamenti di una donna ottocentesca. Occhi verdi da gatta orientale, adesso un po' arrossati, circondati da aloni neri del trucco sciolto dalle lacrime. Anche se il suo corpo gridava di desolazione, era comunque bello, bellissimo. Aveva svuotato la sua anima e percepiva se stessa come dentro una bolla che la difendeva e la proteggeva, ma non lasciava entrare né uscire nulla, come se fosse bloccata in un mondo dove solo lei esisteva. Ora il suo libro era proprio finito. Rilesse il finale appena copiato, lo stampò tutto in due copie e senza più guardarlo infilò i plichi in due buste, scrisse a mano gli indirizzi, mise i francobolli e decise che li avrebbe portati subito all'ufficio postale. Con la fatica di una vecchia signora dolorante per gli acciacchi, andò in bagno a lavarsi il volto. Si truccò e si vestì. Sarebbe andata in fretta alla posta. Era sabato e mancava poco alla chiusura. E poi di corsa sarebbe andata a prendere Mauro dalla nonna. Era suo figlio di 3 anni. Guardò l'ora e pensò di fare una telefonata con il cellulare. Ma non ebbe risposta. L'indomani mattina Adelio si presentò in ufficio con un umore più adatto al lavoro. Evidentemente qualche ora di palestra intensa gli aveva fatto scaricare le energie negative. Alle 9 precise arrivò Rodrigo Beltrami, affranto, ma non troppo. Non è da lei sparire così, senza avvisare. Ho guardato nell'armadio. Mi sembra che manchi qualche abito. Anche la cameriera ha visto qualche pezzo mancante, ma poca roba. Non avevamo litigato, succedeva molto di rado. Comunque pensavo che fosse una bravata, un weekend in qualche bel posto. Ma così, senza una ragione, ora sono molto preoccupato. Rispondendo alle domande degli investigatori, raccontò che la moglie era in buona salute, che il loro rapporto si era raffreddato nel corso degli anni, ma era una routine come tante. Erano benestanti, anzi, facoltosi. La maggior parte dei gioielli della donna erano in cassaforte e mancava solo qualche pezzo. Magari lo indossava. I conti erano a posto, gli investimenti intatti. Clara se n'era andata, portandosi via il minimo indispensabile per pochi giorni, ma poi si era sciolta come neve al sole, sparita senza una parola. Questa storia non ha senso, disse Adelio perplesso. Controlliamo i passaggi aerei, le ferrovie, i traghetti, allertiamo le frontiere. In che rapporti erano suo padre e sua madre? La domanda era diretta e brutale, spiazzò la ragazza che scoppiò a piangere. Appena si calmò, disse: Oh, era un rapporto terribile. Sembrava che si amassero e si odiassero. Era una lotta continua. Un tiro alla fune in cui i due contendenti gareggiavano. Gareggiavano per dominare l'altro. E chi poteva sopraffare l'altro? La posta in gioco era la sofferenza reciproca. Sembrava che papà dovesse aiutare la mamma, che riteneva incapace di fare, decidere e pensare qualunque cosa autonomamente. E la mamma si piegava a questo. Beh, a dire la verità, contraccambiava col disprezzo più assoluto. E io sono scappata, non potevo farcela in quella casa. Ho frequentato le scuole medie e superiori in un collegio svizzero e poi ho fatto l'università a Roma. Le rare volte che tornavo qui vedevo la situazione sempre più allarmante, ma che potevo farci io? Ero troppo piccola e ora. Ho provato a parlare con loro, ma ci tenevano a mostrare una facciata apparentemente a posto, capisce? Rusconi percepiva la disperazione di Lidia, che parlava con gli occhi fissi in un punto della stanza. Ascoltava in silenzio senza perdere una sillaba e osservando ogni movimento del viso e del corpo della donna. Mamma cercava di fuggire non troppo lontano, nella casa di Porto Venere, ma lui la raggiungeva subito e tutto ricominciava. Negli ultimi anni la situazione era peggiorata, mamma prendeva dei medicinali, ma passava dall'euforia alla depressione più nera e non ricordava niente. A volte faceva fatica a parlare o a muoversi. Non capivo, era malata o non lo so, magari erano le pillole che non facevano effetto. Non sono un medico e io non volevo neanche sapere troppo in realtà. Fuggivo perché se non fossi stata a 600 km di distanza sarei impazzita anch'io, ma mi è rimasto dentro un dolore infinito. E ricominciò a singhiozzare disperata. Lui si avvicinò con estrema delicatezza, le posò una mano sulla spalla e poco a poco Lidia smise di tremare, ma continuava a piangere. Adelio era un uomo sensibile, sapeva entrare nel mondo delle persone con cui si trovava a interagire. Proprio per questo riusciva ad avere una calda umanità che lo rendeva piacevole agli altri e aveva un'intelligenza emotiva che lo favoriva sul suo lavoro. Gli studi di psicologia che stava compiendo aiutavano la sua predisposizione naturale. Lidia continuò a parlare un po' più calma. E ora cosa farò? Cominciamo a capire cosa è successo ai suoi genitori. La tragedia di coppia che hanno vissuto prima della morte ha sicuramente un peso importante. Deve aiutarmi. Lei ha ragione, capire darà un significato a questa cosa tremenda. E l'aiuterà a imparare qualcosa per la sua vita futura. Cos'è successo dopo che sua madre è sparita? Anche oggi la nostra puntata termina. Vi saluto e vi ricordo che l'estratto che abbiamo letto è dal libro Sinfonia Nera in Quattro Tempi di Tiziana Viganò. Vi saluto e ci vedremo la settimana prossima. Ciao!